parte della catena. La luna piena, la sera, la soluzione al problema. La fortuna una vita intera, quell'apparizione aliena vera. La forza di vincere gli estranei alla barriera. La rima che non viene, la tripla allo scadere. La risposta nascosta di quel batto la sapere. Siamo il flow, yo bro, oh, vienici a vedere. No, non siamo J-Lo, no, non siamo il sedere. Il gol al 90esimo, il saldo del debito. Il record quando manca quel centesimo. La mossa segreta, la pozione è l'incantesimo. L'uscita al labirinto a Creta, l'esito. Musica vera contro l'analfabetismo. La liberazione di noi tutti schiavi di sto consumismo. Di sana cattiveria in mezzo a tutto sto buonismo. Pratica spacchiamo il culo, scusa il francesismo. Tutti pronti a giudicare, parli bene, parli maledizione, una maledizione. Giudicare, parli bene, parli maledizione, una maledizione. Alza il volume quando stai giù, quando non hai hai tu, quando non ne hai più. Grida più forte quando stai giù, quando non hai hai tu, quando non ne hai più. La base non è una rivoluzione, la tua medicina quando se ne muove. Non è fine mai come, il quanto mai dove. C'è chi la follia quando non c'è ragione. Una rivoluzione, la tua medicina quando se ne muove. Non è fine mai il come, il quando mai il dove. Trovi le risposte ad ogni maledizione. Siamo il bastone per un cieco, trash music va del retro. Lo capisco bro, ti serve un vademecum. Per ogni paragone necessario siamo il metro. Se non ti sta bene fratello salam aleikum. Il centro del bersaglio, le scuse ad ogni sbaglio. La cura di battiato, la cura nel dettaglio. La cosa a cui aggrapparsi se la vita è repentaglio. Un abbaio, un abbaglio. La certezza matematica, a scanso due equivoci. La teoria alla pratica, la voglia di essere liberi. Impegno che non basta, sacrifici miseri. Il segno che ti lascia, cicatrici liberi. Nuova via, nuova scia, nuova fase. Nuova scuola, il senso di ogni singola parola in una frase. Inizio, la fine, la pace. Il gruppo, lo stile, la base.